Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. L'anarchico non è fotogenico. Di e con Paola Vannoni e Roberto Scappin. Ci sono questioni che dobbiamo affrontare insieme. Non possiamo più rinviare. È giunto il momento. Non possiamo più fuggire. A quale questione ti riferisci? A cosa potrebbe morire, ad esempio? Cosa potrebbe morire? La bandiera rossa. Bandiera rossa significa mare mosso, cavalloni, correnti. Pericolo per i bagnanti. Potrebbe morire la pazienza. Ma se muore la pazienza, il mondo è ancora più nevrotico. Ma si è nevrotici perché si è paziente. Oh, non perdere la pazienza. No, ma perdi la pazienza. Potrebbe morire... Volete l'antipasto, il primo, il secondo. Quest'ordine di cose non potrebbe morire. Sì, anche se l'idea che mi mettano tutto in un piatto. Potrebbe morire la benevolenza del futuro candidato alla poltrona di sindaco che si interessa a te perché è interessato al tuo voto. Può tranquillamente morire anche il candidato prima che faccia danno. Tutte buone morti queste. Tutte buone morti. Potrebbe morire il Natale, il Carnevale. Il sentimento di bontà che si lega al Natale. Il sentimento ecumenico. Chi è stronzo rimane stronzo, chi è coglione rimane coglione, non è che a Natale si modifica. Ha chiamato. Cosa potrebbe morire? L'equitazione potrebbe morire. Il fantino, così poi il cavallo è libero di correre dove vuole. Deve morire la ricerca scientifica sugli animali. Ma poi come ci curiamo? Dal cancro, dal Parkinson, dalle malattie degenerative. Moriamo. Perché vogliamo alterare questo equilibrio che in natura non trova ostacoli? Il boia deve morire. È l'unico che non si scompone di fronte a una fine. La povertà deve morire. Prima deve morire la carità che si nutre di povertà. Vuoi far morire la carità? Solidarietà, non carità. Il cowboy deve morire. Il cowboy è morto. Deve morire... L'incapacità di attuare un progetto sovversivo. Il menefreghismo verso qualsiasi atto di ribellione. L'ignavia che ci impedisce di costruire un mondo migliore. Deve morire uno sviluppo tecnologico smodato e le tante strade strette su cui si fanno dei frontali micidiali. E i ciclisti che viaggiano in tripla fila su queste strade strette provocando i frontali. Deve morire la flemma dell'operaio comunale. Deve morire il predominio dell'immagine sulle idee. L'immagine ci confonde, modifica la realtà. Quindi un'idea che ha diritto di vivere? Tutte quelle che sono in grado di smascherare le idee sbagliate. E quali sono le idee sbagliate. Quelle che ci rendono succubi, incapaci, che ci mettono uno contro l'altro. Deve morire la fiction di Rai 1. Può morire anche tutta Rai 1. Certi mezzi busti devono morire. Però le gambe gliele lasciamo. Così però siamo spietati. Stiamo cercando la perfezione. La perfezione dovrebbe morire. Santo Dio. Santo Dio. La scienza non è altro che Dio che si cerca. Per verificare la sua esistenza. Dovrebbe morire una certa idea di sacerdotato. È inguardabile la liturgia di questi. O ti impegni, lotti davvero. Non è che dici le tue due messe. Poi chiudi la baracca. Così non ci siamo, i sacerdoti si devono impegnare. In prima linea. Se no eutanasia anche per loro. Insomma, la faccenda sarebbe lunga. Presentata così però mi sembra poco appetibile. Eh sì, è priva di appeal. CL ci fa paura, l'abbiamo saputo ieri. L'ASL è governata da CL. Dovrebbero morire le guardie svizzere, se ne stanno lì tutte colorate a fare che? Secondo me le suore non dovrebbero morire. E sai perché? Perché? Tu sei stata dalle suore. E le suore sono state per te un'eccellente scuola di ateismo. Assolutamente. Ecco perché le suore non dovrebbero morire. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Per il bene del paese. Per il bene del paese. Ma tu ci metti la faccia? La faccia bisogna metterla. Non puoi mica fare politica con il cappuccio. Diciamo che la faccia nasconderebbe l'incappucciato che è in me. Certo che se ci metti la faccia, però ci metti anche... No, il culo non ce lo metto. Allora ti puoi incappucciare il culo. Che faccia tosta. Senti rimorso? Per averlo impiccato al ramo? Era infelice. Ti sembra una buona ragione per impiccarlo? Nessuno si occupava di lui. Ma con che andatura cammineremo? Con andatura regolare, costante, 6 chilometri all'ora. Giusto. Siamo professionisti. Siamo professionisti. Cosa non vorremmo? Condannarci a dover dire cose straordinarie. Essere gli attori cretini che sfaccendano sulla scena ed essere contemporanei. Siamo professionisti. Siamo professionisti. Cosa vorremmo? Dire l'insensato della nostra condizione in solitudine, accanirci contro ogni connessione ovvia, essere fervidi, vandalici, suscitare la tenerezza dei cinici. Evitare l'inquinamento visivo. Siamo professionisti. Siamo professionisti. Cosa sa? Ma un teatro senza spettacolo. Le linee progettuali di questo lavoro. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Comunque non ti preoccupare, è né una copia. Ti sembro preoccupata. Senti, ma che differenza c'è tra teatro e spettacolo? Per fare teatro bastano anche uno o due coglioni che parlano. Per lo spettacolo ci vuole un tir, facchini e un certo numero di dipendenti a tempo indeterminato. E noi cosa facciamo? Teatro. E perché? Perché non vogliamo guidare un tir. Senti, ma non ti viene una trovata divertente che spezza l'andamento malinconico? No, perché o c'è l'azione spinta, sparatoria, inseguimento a cavallo, caduta da cavallo, caduta del cavallo, pallottole che viaggiano, oppure c'è rilassamento totale. Il solito, fame in un alto, gambe allungate, cappello giù, sguardo laggiù. Come il gatto, immobile per ore e poi tac, scatto. Beh, a questo punto ci vorrebbe il dibattito. Quando sento la parola dibattito metto mano. Quando c'è il dibattito ho sempre una preoccupazione. Si vedrà che voglio fare una domanda intelligente. A me sembra che fai di tutto perché non si capisca quello che vuoi dire. No, ma l'ultima volta si capiva. Quando? Quando ho chiesto a Timpano. Ce l'hai il porto d'armi? E lui? E lui ha risposto, non ho neanche la patente. Ma perché taluni vogliono guadagnarsi il paradiso non essendo kamikaze? Perché ascoltano così assiduamente Radio Maria? Radio Maria è stata considerata un'arma impropria in un processo. Perché un familiare ne infliggeva l'ascolto per 7 ore al giorno ai parenti disabili e incapaci di difendersi. Ma quando hai risposto male al disabile ha detto al centralino, hai fatto un gesto politico. Se uno è stronzo, non c'è carrozzina che tenga. Il tuo impulso caritatevole è completamente subordinato alla tua rabbia politica. I kamikaze si fanno esplodere al mattino. A stomaco vuoto. Per arrivare puntuale all'ora di pranzo dal profeta. Quando muore mia madre, divento cattivissimo. Forse è una scusa per inviare ancora. Ma tu hai un cattivo rapporto con gli uomini. Hai la sindrome della segretaria. È ora di passare dal femminicidio al maschilicidio. Non adesso. L'omino che ha svuotato la fossa biologica era felice. Lui che vive nella merda. Fa un sacco di soldi sguazzando nella merda. Sì, aveva tra le mani il blocchettino. Volete la ricevuta o facciamo in nero? Alludeva, facendo vibrare tra le dita il blocchettino. Lui è abituato a fare il nero, vive nella merda. Accarezzami. Se no sembra che tra di noi ci sia un'indifferenza affettiva senza scampo. L'importante è che l'erezione avvenga, così da dimostrare a se stessi che un residuo di santa animalità c'è ancora. Santa Madonna. Santa. Ti lascio un attimo da sola con i tuoi pensieri. Sono sempre sola con i miei pensieri. Ben ben. Io sparo a te, ben ben, tu spari a me, ben ben, e vincerà, ben ben, chi ha il cuore colpirà. Cosa vuoi dialogare? Non c'è possibilità di capirsi su niente. Ogni persona ha la sua testa, le sue traiettorie. Condividere la vita non significa nulla, non unisce, non crea complicità. Le nostre paure rimangono nostre, le nostre visioni rimangono nostre. Il nostro orrore rimane solo nostro. Santa Madonna. L'altro non lo può vedere, non lo può capire. Si fa finta di dialogare, si annuisce. Si è sempre più stanchi di ascoltarsi. Non si riesce a mettere in piedi più niente. Il solito, fame in un altro, gambe allungate, cappello giù, sguardo. Sicuramente anche Rita ha detto qualcosa in proposito. Rita chi? Rita Pavone. Viva la pa-pa-pa-pa col po-po-po-po-po-pomodoro. Viva la pa-pa-pa-pa. Facebook, Twitter. Macchine dell'ego. L'arma segreta dei lama tibetani è il pugnale che uccide l'io. La materia grigia non riposa mai. Per Per mancanza di calma la nostra società sfocia in una nuova barbarie. Virtù d'attrazione che questo teatro può avere sulle folle? Pare a zero. L'arte suprema di cavare le rape dal sangue. Il sangue dalle rape? Non stavo cercando nuove pertinenze. Siamo esseri morali. Abbiamo una costituzione che si basa su principi morali. Tuo babbo, tieni bene la forchetta. Eccetera, eccetera, eccetera. Stai cercando di dirmi qualcosa? Hai qualcosa nella testa? Ho qualcosa nella testa? No, no, no, no, no, no. Ho qualcosa nella testa. Non ti sento pronto, non ti sento audace. Sono pronto e generoso. In fondo sono del leone. È una garanzia il mio segno zodiacale. Hai qualcosa nella testa? No, sputalo fuori, qualcosa nella testa. Tra un po' finisce la sovvenzione dello Stato. Cosa faremo? Non so. La mia proposta è rubiamo. Che poi entra sempre in gioco questa cosa che ti ha messo dall'infanzia, l'onestà. Hai disprezzo ora per il principio morale? Non riesco a toglierlo. Ma come può entrarti nella testa questo pensierino? Addirittura quando entravamo in un bar, io rubavo il cioccolatino, tu mi guardavi male. Non sopportavi che io rubavo il cioccolatino, io cominciavo a fare tirocinio, a tirocinare col cioccolatino. E ora tu mi vieni a dire, ti vuoi rubare? Poi scusa, ma si digrignano i denti durante il sonno. Il bruxismo è una funzione che non ha uno scopo. Il mio è uno scopo ben preciso. E quale? Mostrare tutta la mia socievolezza. Comunque, se ti prendono a rubare il cioccolatino, ci fai la figura del cretino, del coglione. Sareste capaci di rianimare? Pochi sanno cosa fare quando una persona ha un attacco cardiaco. Basterebbero alcuni semplici gesti. Questa tragedia può capitare a chiunque. Tutto è bene quel che finisce. Sì, come la morte dell'impegno dello stronzo. Esplica. Perché non c'è niente di più ridicolo dell'impegno dello stronzo. Come la morte dell'ottusità dell'intelligenza. Scusa, fammi capire. Perché anche l'intelligenza patisce di una sua ottusità. Giusto. Giusto. Siamo professionisti. Siamo professionisti. Ma se ti prendono a rubare il cioccolatino, ci fai la figura del coglione. Era un inizio per dissigillare quei principi morali che ci impediscono di appropriarci della roba altrui. È la stessa cosa rubare una macchina, un cioccolatino. La vergogna è la stessa, il panico è lo stesso, il rossore è lo stesso. Questa vergogna non ha più senso, la impiccherei la vergogna. Io cominciavo dal cioccolatino, Ferrero, Rocher, Nestlé, Perugina, il cremino, il gianduiotto, quello che era, si girava la barista, zac. Mi appropriavo del cioccolatino per poi dividerlo con te, dolce, sorridente, goduto. Rubato. Goduto per il principio morale che... Che? Evapora. Evapora. A questo punto ci vorrebbe un colpo di scena. A questo punto ci vorrebbe una misanabim. Ho sognato di essere un cowboy che sognava di essere un cowboy. Perfetto. A questo punto ci starebbe anche bene un bel gesto politico. Perfetto. Napoleone, che era uno psicologo, sapeva che per passare dalla tragedia alla commedia basta sedersi. La Chiesa ci ha raccontato solo balle. Solo balle. Chi ha detto non rubare? Voi non morirete, bella promessa. Prova a leggerla come una minaccia. Io non ti lascerò morire. Non ti lascerò morire così, senza soffrire. Voi non morirete prima che siano state attuate su di voi tutte le forme di tortura che la moderna medicina ha pensato, con la benedizione di Dio. Quando uno dice vorrei la tua morte, sembra una cosa terribile, in realtà se tu stai soffrendo dici Chi ha detto non rubare? Chi ha detto non rubare? Fuori dalla banca c'è scritto non rubare. No, dove leggi non rubare? Nel libro? Nel libro dei pensieri sbagliati. Nel libro dell'Esodo leggi non rubare. Oppure nel? Oppure nel carcere. Nel Deuteronomio leggi non rubare. Vabbè, dove non legge mai nessuno. Per questo che tutti rubano. Chi li legge sti libri qua? Ma che cosa ha un senso? Prendere le distanze dalla virtù, ignorarla. Quello che fai giornalmente. Una mattina mi sono svegliata. Che cazzo mi sono svegliata a fare? Progetti per il futuro? Vado all'ufficio di collocamento. Ma cosa ci vado a fare? Si fa finta di lavorare anche lì. Progetti per il futuro? Ci siamo iscritti a un corso di primo soccorso. Così sulla questione, che cazzo mi sono svegliata a fare? Per salvare l'umanità. Al corso di primo soccorso, attacco epilettico. Abbiamo una mandibola serrata, come facciamo ad aprire questa mandibola? Ma prendiamo un coltello, lo ficchiamo in mezzo ai denti e facciamo leva. No, ma prendi la cassetta degli attrezzi. Corso di primo soccorso, ustione. Come interveniamo? Gli spremiamo sull'ustione un tubetto di dentifricio. Quello per le gengive infiammate? Puntura di pesce ragno. Ah, puntura di pesce ragno. Ecco, spargiamo la puntura di urina. Sì, abbiamo un bambino. Vieni qui che ci penso io. Come si apre la mandibola serrata all'epilettico? Gli fracassiamo il cranio. Quindi prendiamo la cassetta degli attrezzi. La vita ti soffoca. La vita ti soffoca. È proprio il pensiero della casalinga anni 60-70, la vita ti soffoca. È il pensiero della casalinga anni 60-70. Passa un camion e quello scarico non ti soffoca. Passi vicino a una fabbrica grigia e quel grigio non ti soffoca, quello sporco non ti soffoca. Tutto ciò che produciamo ci soffoca. Sì, ma la vita ti soffoca e proprio mi manca il respiro. Non il pensiero è contaminato da... La vita ti soffoca e mi manca il respiro. I dialoghi impediscono che mi arrivi aria al cervello. La stupidità mi toglie l'aria, mi soffoca. Guarda, io sono così avvilito, così demoralizzato da questa tua invettiva. Così fragile, così sterile, sono demoralizzato. Non capisci mai quello che dico. Aiutami a capire, la vita ti soffoca, aiutami a capire. La signora che entra nel negozio. Ah, la signora sta rullando la piadina romagnola. Cosa sei, scema? Sei entrata allo zoo? Mostrava il suo facile entusiasmo per l'operato manifatturiero della Sdora. Era il fremito di virtù nella voce che ti irritava. Ah, la signora sta rullando la piadina romagnola. Beh, se vuoi puoi farmi un altro esempio della stupidità, mi soffoca. No, non faccio un altro esempio. Perché ti ho smantellato questo. Ma quando sei andata a fare lo struscio vaginale... Si dice struscio? Striscio. Striscio vaginale. Non ho capito bene che cos'è. Ti prelevano la sostanza vaginale. E questa signora che è arrivata non l'hai considerata di una stupidità soffocante? No, è arrivata e ha detto... Ero in ritardo, mi sono dato una sciacquata in fretta, ma col gesto proprio... Ampio, visibile. La signora della piadina avrebbe detto... Ero in ritardo, mi sono fatto un bidet veloce. Senza quel fremito di virtù nella mano. Non ti sembra che sia giunto il momento di un gesto gentile? Se no sembra che tra di noi c'è un'indifferenza affettiva senza scampo. Ci devo pensare. Ah, il residuo di santa animalità. Santa Madonna. Sì. Ti lascio un attimo da sola con i tuoi pensieri. Sono sempre sola con i miei pensieri. Ben ben, tu spari a me, ben ben. Io sparo te, ben ben, e vincerà ben ben chi primo morirà. Non voglio morire avendo gente intorno che si dispera per la mia morte. Non voglio avere gente intorno che fa di tutto perché io non muoia, o avere gente intorno che si affanna per tenermi in vita con accanto una badante. Non voglio avere gente intorno che mi odia in questo caso. Siamo candele che si consumano. Di noi non resta altro che uno strato di cera informe. Nessuno si batte per tenere in vita una fiamma che si sta spegnendo. Nessuno si batte per tenere in vita una candela. Queste parole hanno un non so che di toccante. Forse il patetico sincero che ne sprigiona. Inquadratura contemplativa. Non ho più memoria. Da quanto ti succede? Mi succede cosa? Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Per il bene del paese. Per il bene del paese. Siamo troppo intelligenti, vero? Troppo, sì, sicuramente. Troppe idee si accavallano. Troppe idee si accavallano. È indeciso il nostro cervello. È indeciso il nostro cervello. Ma cosa ripeti? Sei un pappagallo? Sì, sono un pappagallo. Ti si legge scritto in faccia che sei intelligente. Vero? Sì, sì, si legge proprio intelligente. Con la fronte alta? Sì, sulla fronte c'è scritto intelligente. Complimenti. Anche sulla mia fronte c'è scritto. Non si legge? Sbiadito. Beh, siamo in due, uno intelligente. Certo che se eravamo in due intelligenti era meglio, no? Non inflazionare la mia intelligenza. Inflazionarsi oggi è di moda. Più ti inflazioni, più vai di moda. Più vai di moda e più ti pagano. Ti è piaciuto? Cos'era? Un abbraccio. Ah. Umano. Forte. Sensibile, come me. Molliccio. Ma perché non hai risposto all'abbraccio? Perché non mi hai restituito quello che ti donavo? Mi sono abbandonata. Ma io avevo bisogno del tuo abbraccio, del tuo calore. Perché, Melena? Sono riuscita a farti stare zitto. Ti odio. Bellissimo, vedere nei tuoi occhi quel fuoco piratesco. La ferocia. Quel fuoco corsaro. Che mi assale. Sì. Sei un uomo morto quando fai così. Il sesso è piacevole. Metterti le mani nelle mutande. È piacevole. Metti le mani nelle tue mutande. È solo lo stress che ti fa parlare così. Eros ci toglie dall'estraneità e ci riempie di intimità. Sai che metto le mani anche nelle mie palle, secondo me. Sei spesso così, io le palle non le ho. Sei spesso così. Ogni tanto. Poi cosa fai? Prendi il pane, lo affetti. Sì, può capitare. Con quella mano lì. Sì, non mi viene istintivo il lavaggio delle mani dopo essere stato... A bagnomaria. A bagnomaria. Ma lo sai perché si mettono le mani nelle palle? Non lo sai? No, dimmelo. Perché è caldo. C'è un bel tepore. E questa è la ragione. Siamo intelligenti, soprattutto te ce l'hai scritto in fronte. Non ne approfittare. Sei intelligente, quindi senza pietà. La pietà ferisce, rammollisce. Devi stare calma. Mi servi calma. Ricostruiamo i fatti. Se stavo pensando alla diarrea di tuo padre. No. Se l'è fatta tutta addosso. No. Perché il bagno era occupato da tua madre assistita. Da mio fratello. E le pratiche in bagno di tua madre assistita da tuo fratello sono... lunghissime. La defecazione, la pulizia, il bidet, il detergersi dalle scorie residue. E in quel frangente il tuo babbo ha avuto un attacco. Una scarica pazzesca. Una scarica pazzesca. Diarrea. E non ha avuto il coraggio di bussare alla porta per precipitarsi dentro e sedersi, perché dentro c'era la privacy di tua madre e tuo fratello. Allora quale decisione ha preso con il punto esclamativo? La faccio qui. Dove? A metà strada tra il letto e il bagno, mentre camminava, defecava, si liquidava. Lungo le gambe, tutto pieno. Di merda. Mio fratello aveva fatto un clister a mio padre. Perché gli aveva fatto il clister? Non andava di corpo. Un po' di stipsi. Psicologica stipsi. E si preoccupava. Del tappo. Del tappo. Perché lui va di corpo? Tutti i giorni. Quindi se salta un giorno? Clistere. E questo clistere ha peggiorato la situazione. Mio fratello ha fatto un clistere a mio padre, ha lasciato mio padre clisterato. Forse una serie di clisteri più d'uno. Quindi da una parte c'era il clistere che premeva, dall'altra mia madre in bagno. Le due cose si sono sommate e hanno creato la tragedia diarroica dell'uomo anziano di fronte alla porta chiusa del liceo. Stato terribile per tuo padre. Se sei un proletario e vivi in una casa con tre camere e un bagno, ti succedono queste cose di merda. Tuo padre non si è potuto permettere due bagni. E a 90 anni si è trovato nella situazione... di cagarsi addosso. Tutto alla fine se ne va in merda. Perché non ci sono due bagni? Gli anziani si devono confrontare con la loro merda. E anche i figli. Eh sì. Crediamo che nascondere significhi essere decenti. Dai l'impressione di tenerti dentro un sacco di giudizi amari. Ho questa impressione anch'io. Siamo nel 420 avanti Cristo. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio. Solo la buona educazione ci fa desistere da funesti disegni. Siamo incapaci di riflettere sull'ignoto. Siamo nel panico. E poi senza la capacità di rielaborare eventi dolorosi non c'è mica salute mentale. Lo sai che questa frase è una delle più profonde che ho mai detto? Vabbè, adesso io a questo punto faccio un finale. Senti, ma il tuo destino è legato ad un'antica profezia. Non ti intromettere tra me e il mio. Questa gioia, come posso realizzare questo finale così emozionante che rimane impresso nella memoria? Sì, con il pathos giusto, il giusto tono. Ricordando i tempi più estremi di un'umanità che insieme si stringe compatta e sublime e si sublima. Si sublima e raggiunge per sempre un'eternità infallibile. Perché noi siamo fatti di merda, di merda, di merda. Sei stupidino, eh? Stupidissimo. Perché vuoi diminuirmi? Tu non usi superlativi perché non vuoi rendere densa e superiore ogni speranza, ogni amarezza. Poi io mi domando un'altra cosa, perché non vuoi parlare del futuro? E non si parla del futuro, ci si arriva vivendo. Ma ti piace parlare a Vanvera? No, a meno che Vanvera non sia una persona con cui desideri di parlare. Hai desiderio di parlare con Vander? Magari mi fa domande meno stupide. Mia madre non è mai sazia di vanità. È un riflesso della religione cattolica. Per questo espone in cucina l'immagine di Padre Pio. I presunti meriti che lei mi attribuisce la rendono vanitosa. Si illude che i suoi sforzi non siano stati vani. Mia madre ignora quel che vede, ma arde per quell'immagine. Il figlio la riempie di gioia, dunque, di vanità. È l'aspetto creativo dell'essere madre. Questo l'ho fatto io. Psicoterapia. Darsi alla psicoterapia. Non posso farcela da solo. La fluttuazione dell'umore. Sei incapace di vedere la realtà sempre con lo stesso sguardo. Il cervello macina disordinatamente. Non fa che seguire le nostre istruzioni. Psicoterapia, darsi alla psicoterapia. Se sei orfano hai problemi perché sei orfano. Se hai genitori hai problemi perché hai avuto quei genitori. Non vedo soluzione. L'unica è nascere da un uovo. Buono. Alle volte si hanno delle riserve di carattere filosofico. Tipo, perché oggi devo mangiare? Che senso ha? Filosofia culinaria. I menù di Benedetto. Santa Madonna. Santa Madonna. Ma come si ferma l'intensità dell'emozione sgradevole? Non censurando quello che vorremmo dire. Facciamo in modo che la nostra mente non diventi business. Diventa business quando sposa il pensiero degli altri. Donami domani. Domani, appunto. Ne riparliamo domani. Non ho imparato ad alzare la voce con disinvoltura, non curante. Alzo la voce in modo sgraziato. Quindi la possibilità di non alzare la voce non è nemmeno presa in considerazione, solo affinare l'arte. Ma siamo d'accordo io e te sulla condivisione dell'esistenza? No, tu sei nel futuro, io nel presente. Bella. Porta l'accesso del piacere. Non riesco nemmeno ad emettere un profondo sospiro di sollievo per alleviare la pena. La pena è per ciò che ti circonda. Torniamo a vivere con la poesia delle cose belle, delle cose umane, dei pensieri leggiadri, onesti. Stronzate praticamente. Altruismo, filantropismo, poi estrema delinquenza fino ad arrivare all'omicidio. Non abbiamo altro per difenderci, l'omicidio. Quando finiremo di scandalizzarci perché l'uomo uccide, forse saremo più saggi. Ogni giorno il solito rosario. Finché la catena del rosario si spacca. Si rimette a posto. Però si è spaccata. E qualcuno si indigna e dice basta, siete insipidi, usa questo termine al sapore biblico. E si continua a parlare delle questioni nel solito modo, l'indignazione non genera cambiamento. Bisogna fare come quell'uomo che dice passo la vita cercando di essere invisibile. È un modo per attirare l'attenzione anche questo. Sfiorare la pelle. Mettere la mano nella fossa iliaca, sentire la pressione dell'elastico nella mutandina e stare lì nella fossa immobile, con la mano nella fossa. Meglio che il piede nella fossa. Vedo le mani gialle, steso sul divano, mentre leggo un libro. In quel sottile piacere non curante a cui noi uomini possiamo dedicarci. Le mani gialle, il fegato, steatosi, lo dicono le analisi. Anche Topolino aveva le mani gialle. Anche Pippo. Esistono persone poco propense a fare amicizia, il cui sentimento dell'amicizia è corroso dallo scetticismo. Non mi fido di nessuno. È l'unico buon esempio che mi sento di dare. Tu sei oltranzista, regoli gli stati emotivi con il cervello. A cosa serve se no il cervello? I riti facilitano la vita. tolgono dall'imbarazzo. Ma ci impediscono di affrontare le cose come se fosse la prima volta. Morirò prima io di te. Me lo auguro. Non puoi morire tu prima di me. Anche se fai di tutto perché succeda, perché pensi che solo la morte potrebbe dividerci? Se morissi tu prima di me, non resisterei. Tranvia contro il treno. Io credo di no. Campagna di ridistribuzione. Uccidere e ridistribuire. Non c'è neanche un romanzo moderno su Robin Hood. Guardare Robin Hood per ridistribuire. Il nuovo ministro del welfare. I cani sentono l'odore dei pensieri. Se potessimo farlo anche noi, ci prenderemmo a morsi. Vorrei essere più carino, asciugarti le lacrime, dimostrarti che il mio cuore non è duro come sembra, che sono capace di rispondere alla tua generosità con altrettanta generosità, coccolarti se vuoi essere coccolata e prestare ascolto ai tuoi racconti. Non c'è niente di credibile in questa cosa che hai detto, e lo sai. Ma devo stare attento. Troppo calore potrebbe annullare qualcosa. Due sconfitti che si rifugiano uno nelle braccia dell'altro e si consolano a vicenda. Prospettiva è umiliante. La tua replica tarda. Sì, perché umiliazione e sconfitta sono due attributi che ci mettiamo addosso da soli. Il vittimismo non ha senso in vista della morte. Devo stare attento. Prendersi cura uno dell'altro come due invalidi. Meglio non lasciare nessun segnale, stare disteso con le palpebre serrate finché non sento lo scricchiolio delle scale e il click della porta d'ingresso. Te ne vai? Dove vai? Vado a far pascolare la mente. Tornerai? Non so se ritrovo la strada di casa. Ti piacciono i finali melanconici e stereotipati? Mi piacciono i finali che non finiscono, dove la storia continua senza di me. Dobbiamo chiedere scusa di queste parole vane, di questi cliché. La premeditazione delle scuse è ancora più grave. Mi è venuta in mente. Cosa? La trovata divertente che spezza l'andamento malinconico. Adesso io faccio Giuliano Gemma. Hai bestiame? Hai bestiame? Tienlo caro. Siati utile, resti in tuo possesso. E tu non litigare con l'irascibile, perché ai suoi occhi il sangue è come nulla. Sono suggestivi i grilli. Ricordano la quiete notturna. Ho sempre avuto grilli per la testa. Piacere a tutte le donne, essere bravo come un qualsiasi numero uno, i grilli. Li senti? Sì. Anche tu hai grilli per la testa. Sono suggestive le campane. Il gregge scomposto si dirige a passo spedito verso il sagrato. Un uomo dorme e bestemmia per il casino. Potere dell'immaginazione. Questo pianto non suscita nessuna tenerezza. Le mamme controllano l'istinto di soppressione quando il pianto sembra non cessare mai. Esasperante. Non riuscirei a resistere alla pressione di questo istinto se fossi madre. Le tracce sono finite. Che facciamo? Lasciamo la mancia. Sono contraria alle mance, puttanate. Sì, dobbiamo smetterla di stronzeggiare. Per drammatizzare la già disperata situazione, per visualizzarla meglio, io proporrei un effetto di luce dinamica, giustificato diegeticamente dal vento che fa oscillare la fonte luminosa. Non so, io procederei. Procediamo. Procediamo. Il continuo interscambio tra luci ed ombre, bianchi e neri, esprime bene i tumultuosi sentimenti che i nostri personaggini provano. Questo per dire che è assolutamente necessario morire. Perché finché siamo vivi, manchiamo di senso. L'anarchico non è fotogenico. Di e con Paola Vannoni e Roberto Scappin. Con Paola Vannoni di Quotidiana.com per parlare dello spettacolo L'anarchico non è fotogenico, primo capitolo della trilogia Tutto è bene quel che finisce. Paola, ben trovata. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci racconti intanto di questo spettacolo? Sì, allora questo spettacolo parte appunto di questa trilogia Tutto è bene quel che finisce. L'idea è nata da una riflessione sul tema dell'eutanasia. È un tema di cui in Italia è difficile parlare, o comunque quando se ne parla risulta comunque un argomento difficile, spinoso, no? Che si presta a molti conflitti. Si allarga però questa trilogia, il tema dell'eutanasia, a tutto ciò che a nostro avviso dovrebbe morire, cioè a molte pratiche ormai esaurite e molti atteggiamenti anche nella vita sociale, politica, anche culturale, che dovrebbero esaurirsi per lasciare spazio a un rinnovamento. Questo è un po' il tema che racchiude la trilogia e questi tre capitoli. Come si è sviluppata poi? L'anarchico non è fotogenico, l'ha voluto con questi due cowboy in scena. Sono cowboy, sono figure di cowboy perché hanno un cappello da cowboy in sostanza, perché volevano rappresentare per noi il confronto con la morte, il confronto quotidiano con la morte che non fa paura ma viene considerato come una parte dell'esistenza. Il cowboy è colui che ogni giorno si confronta con la morte in modo anche molto fatalista, se vuoi. Quindi ecco, queste due figure un po' rappresentano il nostro sguardo sulla morte, che non deve essere appunto qualcosa di cui non si può parlare, qualcosa che suscita inquietudine o angoscia in qualche modo. Tentiamo quantomeno di esorcizzare, ecco. Due elementi forti della vostra poetica sono surrealismo e sarcasmo. Ci racconti un po' del vostro percorso, della vostra esperienza? Sì, l'unione artistica tra me e Roberto Scappin è stata abbastanza laboriosa, se non abbastanza conflittuale, perché veniamo da due orizzonti completamente diversi. Cioè, io più da un teatro di ricerca, essendo vissuta molti anni a Sant'Arcangelo, avendo frequentato il festival, Roberto più da un teatro di tradizione. All'inizio, diciamo, è stato abbastanza difficile trovare una propria cifra. L'abbiamo trovata in questa sottrazione. Cioè ci siamo interrogati su cosa era prima il teatro e quindi l'incontro di due pensieri anche conflittuali ma che suscitano domande e interrogano un po' sui temi della contemporaneità. Il sarcasmo è un po' il tentativo di guardare con altri occhi la realtà. Il sarcasmo in realtà non è ridicolizzare o sminuire un tema o un problema, ma è proprio la necessità di andare a scavare laddove solitamente non si va, se non con il pensiero, se non con cose che non è corretto dire. Quindi un po' questo è il senso per noi del teatro, andare a esplorare laddove c'è il non detto e quindi lo poniamo in questa sorta di situazione surreale proprio perché il dialogo esplora l'inesplorabile in qualche modo, no? O perlomeno tenta di farlo. Ecco. Con che prospettiva state affrontando questa quarantena? Le domande che ci facciamo sono tante, ma ci sono anche delle conferme, cioè la conferma è che il nostro settore è quello tra i meno tutelati. cioè ci viene riportato in questo ventaglio di giornate tutta la nostra, se vuoi, inutilità in qualche modo, no? Siamo l'ultimo settore che viene citato, come se appunto queste giornate in realtà non fossero confortate proprio dall'arte, se vuoi, no? Comunque la forma artistica, la musica, il cinema, la lettura. Questo settore in questo momento realizza forse più di altri momenti la propria inutilità, nel senso che così veniamo percepiti, e quindi la necessità che veramente ci sia una forma di tutela, una forma di presa di coscienza di questa nostra posizione. Questo è un po' il quadro che ci abbiamo davanti. Quando tutto questo finirà, e sarà probabilmente molto in là, perché saremo gli ultimi a riaprire, penso i teatri saranno il settore, non so quanti di noi ci saranno ancora, e forse qualcuno non ci sarà più, avrà abbandonato il percorso, e questo è un problema per tanti. Dobbiamo essere positivi, sì. Nel salutarci ci lasci tutti i vostri riferimenti? Il sito è quotidiana.com.it, siamo presenti sulla nostra pagina Facebook Compagnia Quotidiana. Faccio un'anticipazione: noi comunque stiamo continuando a lavorare, perché siamo anche una coppia, quindi riusciamo a lavorare anche in questo periodo. Stiamo preparando il nostro nuovo spettacolo, che è Tabù. Tabù si interroga appunto sui divieti. Dovrebbe debuttare a Kilowatt, ma chissà cosa succederà, vediamo un po'. Siamo positivi, dai, speriamo che tutto si possa realizzare. Paola Vannoni di quotidiana.com per parlare del primo capitolo della trilogia Tutto è bene quel che finisce, ossia l'anarchico non è fotogenico, e anche più in generale sulla loro attività. Un abbraccio, un in bocca al lupo, e alla prossima, risentirci presto. Anche a te, un abbraccio a tutti, grazie. Con Annalisa Nicastro, direttrice di Leggere Tutti, per parlare dell'appuntamento Navigare tra i libri e le parole, cooperazione, solidarietà e gratitudine, il 23 aprile 2020, in occasione della Giornata Mondiale del Libro. Ben trovata. Grazie, ben trovati anche a voi. Un saluto ai vostri ascoltatori. Ci racconti di questa iniziativa? Sì, come hai ben detto, il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, Leggere Tutti sta organizzando una diretta streaming che andrà dalle 10 alle 20, appunto in diretta streaming su YouTube, con scrittori, attori, registi, musicisti un po' presi da tutto il mondo. Ci sono tantissimi ospiti, tra i quali si possono nominare Violardone, Merania Mazzucco, Massimo Carlotto, Simona Sparaco, Peppe Servillo, Giordano Bruno Guerri, Donald Sassoon, e anche musicisti internazionali quali Olivia Belli, Fabrizio Paterlini, e artisti come per esempio Asciano Celestini, Massimo Zamboni. Insomma, l'elenco è molto lungo, perché fortunatamente questo nostro invito ha avuto molti consensi, e si stanno aggiungendo giorno dopo giorno tantissimi amici e ospiti. Ovviamente la diretta streaming, come dicevo, andrà su YouTube, ma potranno partecipare tutti quanti inviando anche le loro domande attraverso WhatsApp o WhatsApp audio, e anche sul canale stesso YouTube, perché così in contemporanea a quando intervisteremo uno scrittore o un artista ci sarà la possibilità per tutti quanti di porre le proprie domande, insomma, in tempo reale. Ecco, questa è una cosa molto importante che volevo dire. Sarà una diretta streaming dalle ore 10 alle 20. Come sarà articolata? Come hai detto bene tu, si svilupperà tutto intorno a tre parole che hai nominato, che le rinomino, sono la cooperazione, la solidarietà e la gratitudine, e per tutta la giornata, quindi a partire dalle 10 alle 20, ci saranno interventi, presentazioni di libri, esibizioni musicali, performance teatrali, reading, quindi sarà un programma molto eterogeneo e variegato, quindi non ci saranno solo le parole, ma ci accompagneranno anche appunto la musica, le pièce teatrali e ovviamente le parole degli scrittori che interverranno. Parliamo anche un po' dell'esperienza Leggere Tutti? Sì, allora, la Leggere Tutti è una rivista che è stata fondata ed esiste dal 2005, quindi siamo da tantissimi anni. E organizziamo sempre tante occasioni e tanti eventi perché la nostra mission è quella, appunto, come il nostro titolo enuncia, è quella di leggere tutti, quindi di promuovere la lettura e il libro, diciamo, non solo in tutti i canali, ma anche per tutte le fasce di età, insomma, quindi non solo per adulti, ma anche per ragazzi. Infatti facciamo tantissime cose, soprattutto per coinvolgere loro. Fra gli eventi che organizziamo c'è sempre stato da 11 anni a questa parte la nave di libri per Barcellona, con cui partivamo da Civitavecchia per arrivare appunto a Barcellona nel giorno della giornata mondiale del libro, perché a Barcellona è una festa molto molto sentita e si chiama la festa di San Giorgio, i libri e le rose, dove c'è una Barcellona stracolma di libri e di rose e si festeggia regalandosi dei libri, e gli uomini regalano i libri, gli uomini regalano le rose alle donne e le donne contraccambiano con un libro, ed è una festa veramente molto sentita. Purtroppo quest'anno, alla nostra 11ª edizione, abbiamo dovuto, insomma, rinunciare per l'emergenza coronavirus, però non ci vogliamo fermare e continuiamo a navigare appunto tra i libri e le parole, perché vogliamo essere comunque speranzosi, speriamo che tutto vada bene e ritorneremo, insomma, alla quotidianità che ci manca a tutti quanti, con la speranza appunto che il prossimo anno potremo essere di nuovo a Barcellona a festeggiare, come abbiamo sempre fatto, la giornata mondiale del libro. Quest'anno lo facciamo online. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti? Sì, certo. Allora, intanto vi lascio il sito dove potrete vedere il programma che è in continuo aggiornamento, è www.leggeretutti.eu. E se volete mandarci e scriverci un'email, la potete scrivere a info@leggeretutti.it. E poi ci trovate su tutti i social, basta mettere Leggere Tutti e ci troverete su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, insomma ci trovate ovunque. Navigare tra i libri e le parole, cooperazione, solidarietà e gratitudine, una diretta streaming dalle ore 10 alle 20 del 23 aprile in occasione della giornata mondiale del libro. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice di Leggere Tutti, Annalisa Nicastro. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, speriamo, seguiteci, perché insomma abbiamo bisogno anche del vostro supporto. Con Rita Pelusio, una delle organizzatrici della 13ª edizione di Partigiani in ogni quartiere, in versione streaming questa volta, un assembramento digitale resistente, sabato 25 aprile 2020 a partire dalle ore 18:30 su diverse piattaforme web. Rita, ben trovata. Ciao, ciao. Raccontiamo questo esperimento. La cosa più bella che sta succedendo è questa, che all'inizio c'era molta paura all'idea di fare una diretta streaming, perché bisognava avere anche mezzi e forza, e poi invece si è mobilitato il mondo e sta venendo fuori una cosa bellissima che non solo proprio ci dà gioia perché è nuova per noi come esperimento proprio, ma ci ha insegnato un sacco di cose. La cosa più bella è che tantissimissimi artisti, musicisti, gente, persone della società civile, contributi di archivi, sui partigiani, eccetera, si sono mobilitati, per cui abbiamo 4 ore e mezza di diretta con contributi veramente diversi. Poi un'altra cosa bella è che per esempio alcuni attori hanno iniziato anche a disegnare il loro contributo, alcuni attori suonano, alcuni musicisti fanno, leggono per esempio, alcune persone della società civile raccontano però in modo narrativo, insomma è come una contaminazione di tutti. Bello, sta venendo una cosa bellissima, speriamo poi che si riesca a trasmettere. Si parte dalle 18:30, poi si sa più o meno la durata o sarà fiume? Più o meno abbiamo contato da scaletta, ma oggi abbiamo un'altra riunione di scaletta perché continuano ad arrivare i contributi, più o meno 4 ore e mezza. Raccontiamo anche l'esperienza Partigiani in ogni quartiere? Sì, questa è la 13ª edizione, si è sempre svolta in quartieri un po' periferici di Milano. Durante tutto l'anno venivano fatti anche dei laboratori, degli eventi più piccoli che poi avrebbero portato alla realizzazione di Partigiani in ogni quartiere, laboratori in centri di aggregazione, cioè coinvolgendo anche davvero tutta la società civile. E poi si arrivava sempre in questo concertone del 25 aprile. Da 2 anni o 3, non mi ricordo perché le ho presentate tutte, ma adesso non ho più, insomma, 2 anni o 3 si faceva invece all'Arco della Pace, quindi conquistando proprio il centro della città. La cosa bella di quest'anno, forse di questa diretta, è che adesso sarà in tutta Italia o anche in tutto il mondo, se uno vuole. Per cui è come che Partigiani in ogni quartiere adesso proprio sta così. Si espande come una, posso dire, come una costellazione, ecco. Nel corso di questi 13 anni come si è evoluta? Da parte del collettivo, diciamo del gruppo che organizza, si è evoluta tantissimo l'unione, la partecipazione, anche la ricerca di nuovi linguaggi. Da parte del pubblico, secondo me, sono cambiate tanto, per esempio negli ultimi anni sono arrivati tantissimi giovani, forse perché uno dei lavori più grossi è stato fatto tanto anche per coinvolgere i giovani sui valori della resistenza. Quindi c'è questo cambiamento, ecco, che si è visto nel corso degli anni. Quest'anno secondo me il cambiamento vero è che mentre gli altri anni c'erano molti più musicisti che attori, perché ovviamente doveva essere un concertone, come lo chiamavo sempre io, quest'anno invece ci sono tantissimi anche attori e quindi a me almeno piace molto molto molto questo equilibrio che si è creato. Ecco, sempre a proposito della vostra storia, come state percependo questo rapporto con la memoria rispetto a chi fruisce di questa iniziativa? Ma io, questa però è una mia opinione personale, quest'anno mi sembra che forse proprio per il fatto che non ci si possa incontrare, la sensazione che ho io è che ci sia molta più voglia di festeggiare il 25 aprile, cioè anche con iniziative singole, per esempio andare a portare dei fiori sulle lapidi dei partigiani, anche singolarmente, uno alla volta, cioè secondo me questa detenzione forzata che stiamo subendo in realtà sta creando molta più voglia il 25 aprile di dire no, io voglio uscire, voglio testimoniare. Secondo me, però è una mia opinione. Ci dai tutti i riferimenti? Partigiani in ogni quartiere ci sarà praticamente su tutte le piattaforme, cioè autistici.org, da YouTube, Instagram, Facebook. Se si va sulla pagina di Facebook Partigiani in ogni quartiere, lì si trova continuamente l'aggiornamento di tutte le piattaforme. E rispetto all'attività durante l'anno, al di là della data 25 aprile, cosa organizzate? Quest'anno non è quasi stato possibile organizzare molto, nel senso che poi soprattutto qui a Milano dal 23 febbraio ci hanno come recluso, quindi tutto quello che era la preparazione non è stata possibile farla. Diciamo che all'interno di Partigiani in ogni quartiere poi è nata anche una piccola sezione femminile che poi è diventata una sezione AMPI e abbiamo fondato Audrey AMPI nominando appunto Audrey Hepburn proprio perché lei è stata una staffetta. da partigiana ha fatto la resistenza, ecco. E quindi nascono quest'anno, la cosa bella che posso dire forse è questa. E allora ricordiamo la 13ª edizione di Partigiani in ogni quartiere, in versione streaming, assembramento digitale resistente, sabato 25 aprile 2020 a partire dalle ore 18:30 su diverse piattaforme web. Un saluto ed un ringraziamento ad una delle organizzatrici, Rita Pelusio. Un abbraccio ed in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo, ciao. Con Giulio Marcon di Sbilanciamoci per parlare dell'ebook L'epidemia che ferma il mondo, economia e società al tempo del coronavirus, scaricabile gratuitamente. Ben trovato. Buongiorno. Ci presenti l'iniziativa? Sostanzialmente è quella relativa, diciamo, a una serie di articoli, di saggi, di interventi che sono stati pubblicati sul sito di Sbilanciamoci, alcuni sono stati invece richiesti in modo specifico e mirato sull'emergenza coronavirus, quindi cerchiamo di fare il punto su vari aspetti di questo ebook che raccoglie questi interventi sui vari aspetti che interessano questa emergenza, l'aspetto sanitario, quello economico, quello sociale, quello culturale. Attraverso vari interventi di economisti, di accademici, ma anche di esponenti di movimenti, di associazioni, cerchiamo di dare un contributo per aprire un dibattito anche su quello che bisognerebbe fare dopo, che ovviamente è un tema molto importante, molto significativo e sul quale bisogna cominciare a riflettere, che si dice in modo retorico che nulla sarà come prima, una frase che abbiamo già sentito nel 2008 quando c'è stata la crisi economica e finanziaria che poi è durata tanti anni, nella quale siamo ancora immersi, poi abbiamo visto che in realtà tutto è continuato come prima, quindi da questo punto di vista dobbiamo essere molto attenti a fare in modo che questa volta si cambi veramente, e l'ebook cerca di fare il punto sulle cose che andrebbero cambiate, che andrebbero modificate, su quello che bisognerebbe fare per far ripartire l'Italia in un modo diverso. Sulla scelta degli interlocutori, che criteri avete utilizzato? Ma alcuni interventi sono arrivati spontaneamente, li abbiamo letti, li abbiamo condivisi, li abbiamo considerati come un contributo al nostro dibattito. In altri casi sono stati interventi sollecitati, insomma, sia quelli di alcuni economisti sugli aspetti, appunto, delle conseguenze economiche e sociali di questa emergenza sul nostro paese. In altri casi, diciamo, sono stati sollecitati interventi specifici, ad esempio sull'aspetto sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, insomma, segnalo l'intervento ad esempio di Annalisa Mandorino, che è la vicepresidente di Cittadinanza Attiva, che fa il taglio sui tagli avvenuti al sistema sanitario in questi anni, su quello che bisognerebbe fare invece per rilanciarlo, un servizio sanitario pubblico che venga incontro effettivamente ai diritti e ai bisogni delle persone del nostro paese. Oppure interventi più, diciamo, specifici come quelli relativi al rapporto tra la crisi ambientale e questo virus, sono gli interventi di Stefano Lenzi, del WWF, di Anna Donati, di Piotr Grep, che fanno il punto su questa vicenda, oppure il rapporto tra spese militari e spese sociali rispetto a un bisogno fondamentale che è quello di ridurre le spese militari per finanziare invece la scuola, la sanità e il lavoro. Ci sono interventi come quello di Francesco Vignarca e di Valpiana, poi un intervento molto utile, molto interessante di Tamino e di Nicoletta Rentico, anche su una crisi annunciata, su un'emergenza che poteva essere prevista, che poteva essere, diciamo, affrontata in modo diverso, soprattutto il pezzo di Nicoletta Rentico, un pezzo, diciamo, molto utile perché fa il punto, diciamo, fa il punto su una pandemia annunciata, così lei dice, una pandemia annunciata rispetto alla quale sia le organizzazioni internazionali con l'OMS sia a livello nazionale con sistemi sanitari pubblici indeboliti in questi anni a causa delle politiche di privatizzazione non hanno fatto quello che in realtà avrebbero dovuto fare. Ci saranno delle presentazioni online, giusto? Sì, avremo 4 webinar, insomma, abbiamo imparato questa parola in queste settimane, cioè degli incontri virtuali, però insomma con delle persone in carne ed ossa. Inizieremo il 23 con Nicoletta Lentico e Mario Pianta, poi il 24 ci sarò io e Gabriele Povo, poi seguiranno altri incontri di questo tipo che faranno il punto su aspetti specifici, in particolare su aspetti specifici che vengono trattati da questi book, in particolare il primo sarà sui temi dell'emergenza economica e sanitaria, il secondo sarà sui temi del lavoro e sulle proposte di sbilanciamoci, diciamo, per un'economia diversa, alternativa a quella attuale, e poi altri interventi, altri webinar con interventi sui temi della finanza e dell'ambiente. E questo è un modo per rilanciare un dibattito il più partecipato possibile, non delegato a tecnologi, a specialisti e a esperti, ma che coinvolga, diciamo, la società, che coinvolga la nostra comunità, sia un dibattito effettivamente popolare. Insomma, questo è l'obiettivo che noi ci poniamo, perché da questa crisi non se ne esce con, posso dire, con i consigli più o meno saggi di alcuni tecnocrati, ma se ne esce con una visione di società diversa da quella attuale, alla quale devono contribuire tutti. E tutti, sottolineo tutti, quindi un dibattito che sia veramente democratico e rappresentativo di tutte le forze sociali e economiche del nostro paese. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti? Sì, è sufficiente andare sul sito www.sbilanciamoci.info, qui si può scaricare l'ebook gratuitamente, poi ci sono altri interventi che sono arrivati in questi giorni, stamattina abbiamo pubblicato un appello di oltre 40 persone, tra cui persone di movimento, dirigenti di associazioni come Cittadinanza Attiva, WWF, Antigone, ma anche personalità come Rossana Rossanda, Rosi Bindi e altre, che chiedono un cambio di rotta, cioè chiedono di rimettere al centro le istituzioni pubbliche, il pubblico, e di arginare quelle dinamiche di mercato che hanno causato anche quella risposta così tardiva e insufficiente che abbiamo conosciuto in questi giorni. Quindi andando su www.sbilanciamoci.info si può caricare tutto e si può essere, posso dire, partecipi di un dibattito che speriamo sia il più largo possibile. Ricordiamo l'ebook scaricabile gratuitamente, L'epidemia che ferma il mondo, economia e società ai tempi del coronavirus. Un saluto e un ringraziamento a Giulio Marcon di Sbilanciamoci. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, ciao. Ciao. Con Tiziano Panici per parlare del progetto, dell'iniziativa Il Teatro di Domani. Tiziano, ben trovato. Ben trovato a te, Fede. Mi fa molto piacere sentire te. Radio Onda Rossa attivi in questo momento. Eccoci. Raccontaci di quest'idea. Nasce da una riflessione, in realtà. Ho accompagnato con un videomessaggio il comunicato di chiusura del Teatro Argo. Avevamo le ultime attività in programma a maggio. Abbiamo aspettato, come tutti, di capire in che modo evolvesse la situazione, capire se appunto ci sarebbe stata la possibilità di recuperare, di riaprire. Tra l'altro dovevamo chiudere con una rassegna dal titolo Over, che è dedicata proprio ad emergenze teatrali, ma la realtà è che, insomma, quello con cui tutti ci stiamo scontrando e di cui tra l'altro se ne sta discutendo anche in questi giorni è sia ancora quanto durerà la fase emergenziale, sia quali saranno poi i postumi di tutto questo. E ragionando su cose molto pratiche, quindi sull'impossibilità di fare una campagna di comunicazione per la rassegna, poter stampare il materiale cartaceo, chiedere chiaramente determinati servizi che in questo momento sono bloccati, ma in realtà anche la possibilità di ospitare le compagnie, sapendo che alcuni degli artisti venivano chi da Marsiglia, chi da Milano, chi da Padova, quindi da zone rosse, era impensabile poter mantenere questo impegno. E mi sono trovato di fronte alla certezza di dover chiudere la stagione, e quindi era giusto anche darmi una comunicazione lucida, reale, efficace. Da lì però anche chiedersi come si potrà ripartire, perché i luoghi di aggregazione, non penso solo ai teatri, penso anche alle palestre, alle piscine, alle piazze,